Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo da due realtà industriali molto importanti per questo paese. Una si chiama Brescia, perché domani vi sarà un'importante assemblea degli industriali bresciani con un titolo: Uniti per cambiare. Grandi aziende bresciane entrano nell'associazione. Ma faremo il punto su uno dei territori a maggior tasso di industrializzazione. Dall'altro, invece, sempre un territorio a grandissimo tasso di industrializzazione, mi riferisco a Prato, ma qui mi riferisco alla tragedia occorsa ieri mattina. Al di là di tutte le inchieste della Procura e di tutte le responsabilità che verranno, ci auguriamo, attribuite, resta un fatto che a noi, insomma, ha lasciato abbastanza perplessi: la stessa dichiarazione del procuratore della Repubblica Piero Toni, che dice: la maggior parte delle aziende sono organizzate così, è il Far West. Allora, qui abbiamo da tempo una posizione degli industriali pratesi che dice: va bene l'inclusione della comunità cinese, ma attenzione, devono essere in regola, devono essere sottoposti agli stessi controlli a cui veniamo sottoposti noi. Dall'altro, la posizione della CGIL. Ora, è benemerito il ruolo dei sindacati quando svolgono quello che è il loro ruolo, cioè la tutela dei diritti dei lavoratori, delle condizioni di sicurezza e quant'altro. Quello che a mio avviso è difficilmente accettabile è che ad essere controllate, e non solo dai sindacati, ma in generale, siano le fabbriche quando sono di proprietà di un italiano, e poi in realtà abbiamo una comunità cinese, lo dico con massimo rispetto, che opera, ed è il segreto di Pulcinella, opera nella totale illegalità con buona parte di legalità. Non tutte le fabbriche, ci mancherebbe, ma insomma quello che abbiamo visto è abbastanza chiaro. Allora, quando un procuratore della Repubblica dice che è il Far West, la mia domanda è: come mai lo Stato si arrende, da un lato? E la seconda domanda è: anche i sindacati, e ne ha parlato oggi Alessio Gramolati, segretario generale della CGIL in Toscana, beh, insomma, le denunce dove sono? Forse c'è stata una debolezza, almeno nel sindacato, nell'essere più attento. Ne parleremo con il presidente anche degli industriali toscani. Poi il caos IMU, perché il governo è ancora al lavoro per trovare la copertura che consenta di cancellare la cosiddetta mini IMU, cioè la quota delle addizionali comunali che dovranno pagare i cittadini che abitano in quei comuni. Sono circa 200 milioni al momento a carico dei cittadini, però c'è un'ipotesi di copertura aumentando gli acconti IVA, che attualmente sono comunque già all'88%. Ancora i CAF lanciano l'allarme per il calcolo della seconda rata, ma soprattutto poi c'è anche un affollamento di scadenze fiscali, perché insomma è scaduto il termine ultimo per modificare da parte dei comuni le aliquote IMU, che poi devono essere comunicate entro il 9 dicembre. Il 10 dicembre si pagano gli acconti IRAP e IRES, il 16 dicembre saldo IMU per le seconde case e prime case di pregio, 27 dicembre acconto IVA che potrebbe aumentare appunto per coprire la seconda rata IMU, e poi il 16 gennaio pagamento saldo IMU della prima casa nei comuni che hanno alzato l'aliquota se il governo non reperisce le risorse per evitarlo. E questa è la situazione. E poi avremo anche la seconda puntata, un'altra puntata dell'indagine di Roberto Perotti, che adesso è molto famoso come economista, perché l'ha citato sia Renzi che Civati in uno scontro televisivo, insomma, confronto televisivo in vista delle primarie del PD. Noi modestamente l'avevamo avuto ospite in tutti questi mesi, anche la settimana prima. Indagine di Roberto Perotti sui costi della politica. Oggi vi racconteremo come mai il costo complessivo degli organi legislativi ed elettivi sia sostanzialmente, parliamo solo dei consigli regionali, della Camera e del Senato, non di tutto il resto, perché già Perotti ha stimato che il costo delle regioni complessivamente sia di 1 miliardo di euro, ma se parliamo solo degli organi legislativi ed elettivi, cioè di chi delibera, la Camera, il Senato, il Consiglio regionale, siamo a 2 miliardi e mezzo di euro, 970 milioni costa la Camera, 480 milioni il Senato, 985 milioni i consigli regionali, appunto quasi un miliardo, 45 milioni i consigli provinciali. E parliamo solo dei consigli. Ecco, su questa insomma c'è una proposta dello stesso Perotti che a mio avviso potrebbe essere girata a Cottarelli tranquillamente, riducendo a 500 i parlamentari, tagliando il 30% dei compensi, che guadagnerebbero comunque più dei britannici, si arriverebbe a risparmi complessivamente interessanti, poi ne parleremo, per cui andrebbero ridotti del 30% anche i vitalizi. Sono altri 54 milioni di euro, e poi le retribuzioni del personale, quelle più alte, si potrebbero risparmiare 60 milioni di euro. Non lo dico perché oggi Renzi ha detto, anzi ieri ha detto, attenzione, se vinciamo noi andiamo al governo e diciamo, caro governo, sono 2 miliardi e mezzo i costi della politica, in un anno possiamo arrivare a 1 miliardo in meno. Ecco, vorremmo capire se questo sia anche percorribile. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo dalla borsa. Allora, per quello che riguarda la borsa, meno 1,30% Milano, decisamente peggio rispetto a Parigi, meno 0,14%, Londra meno 0,60% e ancora Francoforte invariata, in America sostanzialmente invariata, meno 0,13%. Cosa succede a Milano? Oggi non sono tanto le banche, soprattutto il gruppo Enel a pesantire la borsa. Meno 3,30% Enel, meno 2,60% Enel Green Power, negativa anche Saipem del 2,80%, e poi c'è Luxottica che perde 2,5% come Telecom Italia, Fiat che perde il 2% come GTEC, Prismian che perde l'1,80% come A2A ed Atlantia, ma anche CNH Industrial. Bene invece Ferragamo più 1,40%, World Duty Free più 1,1%, Diasorin più 0,40%. Ci sono timori per quello che riguarda l'Enel. In Spagna ci sarebbe una revisione della normativa sul sistema elettrico che potrebbe annullare 3, forse 4 miliardi di finanziamenti spagnoli al settore dell'energia. Perché importa la Spagna? Perché, come molti di voi sanno, Enel controlla il principale operatore elettrico spagnolo, che è Endesa, è l'Enel spagnolo, e quindi questo impatterebbe sul conto consolidato di Enel in maniera diretta. La febbre da Bitcoin contagia anche la Silicon Valley, praticamente sono tutti a correre alla valuta digitale, anche il venture capital di Google, uno dei primi sostenitori di Facebook, e poi Jim Breyer, partner di Accel. Insomma, la valuta può tradursi, o acquistare Bitcoin può anche dare ampi profitti se usata per realizzare una nuova industria finanziaria digitale. Sostanzialmente i big della Silicon Valley ritengono che la condivisione di protocolli e standard tecnologici comuni possa essere il fondamento per un sistema finanziario a basso costo e indipendente, più della tradizionale industria bancaria. La moneta virtuale attualmente viene scambiata a 1.029 dollari, è cresciuta tantissimo. Pensate che oggi un britannico ha maledetto il giorno in cui ha buttato il suo vecchio hard disk, perché James Howells si è accorto troppo tardi che al suo interno c'erano 7.500 bitcoin, valuta virtuale, che però in questo momento varrebbe 5 milioni e mezzo di euro. Lui aveva iniziato nel 2009 a collezionare le monete, un po' per gioco, poi quando si è accorto che la moneta ha superato il valore storico di 1.000 dollari, ha cercato il suo computer dove li aveva messi, addirittura nella discarica, ma non li ha trovati. Ancora, per quello che riguarda invece il colosso americano Amazon, Jeff Bezos, in un'intervista da 60 Minutes, dice che utilizzeranno anche un drone per le consegne rapide, anche in 30 minuti. Sta sperimentando infatti Octocopter, un drone che permetterà di consegnare i pacchi di Amazon addirittura in 30 minuti. E Bezos, ricordo, come 18 anni fa la consegna alla posta consegnava lui alla posta i pacchi, e ormai insomma, si ritiene che sia ormai a 4-5 anni dalla possibilità di usare droni per le consegne stesse dei pacchi postali. Però attenzione, perché al di là delle dichiarazioni di Bezos, le agenzie americane le autorità aeronautiche americane ritengono molto difficile dare via libera all'utilizzo dei droni per consegnare libri e quant'altro. Uno potrebbe fare anche la battuta: meglio i droni per i libri che i droni per scopi militari. Comunque, andiamo avanti. Il pessimismo del Nobel per l'economia Paul Krugman, che sul New York Times scrive: abbiamo un'economia in cui ormai la condizione normale è la lieve depressione, e in cui brevi momenti di crescita si verificano soltanto grazie alle bolle e a un indebitamento sostenibile. La popolazione, spiega Krugman, cresce troppo lentamente e solo negli anni 60 e 70 con i baby boomer c'è stato un vero avanzamento. L'epoca del denaro facile, dunque destinata a durare ancora molto tempo, non ha senso preoccuparsi in questo momento di un eventuale aumento dei tassi di interesse, secondo Krugman. La missione, veniamo all'Italia, negli Stati Uniti, del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Oggi serata, domani sarà a Washington, poi mercoledì a New York. L'obiettivo è spiegare, far apprezzare possibilmente alla comunità economico-finanziaria americana i punti di forza dell'economia italiana e del nostro sistema paese. Vari incontri a Washington, vede oggi il segretario di Stato del Tesoro Jacob Lew, poi vedrà il presidente uscente della Federal Reserve Ben Bernanke, e poi assieme alla prossima presidente, che attualmente è vicepresidente, Janet Yellen, e poi il vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, David Lipton. Ancora come oggi i nostri GR vi hanno raccontato sin dalla mattinata, comunque trovate tutto quanto sul Sole 24 Ore, la annuale classifica della qualità della vita, e ancora il Trentino Alto Adige in vetta alla classifica 2013 del Sole 24 Ore, prima Trento e seconda Bolzano, era prima Bolzano nel 2012. Sono 36 parametri sul tenore di vita, affari, lavoro, servizi ambientali, salute, popolazione, ordine pubblico. Bologna si conferma al terzo posto, Belluno quarta, Siena quinta. Al capo posto della classifica, ossia ultimo posto, Napoli, la sua provincia. Devo dire che Milano e Roma non si collocano malissimo, Milano al decimo posto, Roma al ventesimo, Firenze settima, Torino scivola invece al 52esimo posto. E comunque tutta la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, con i vari parametri, perché poi all'interno di ogni del punteggio definitivo ci sono i vari punteggi per le varie voci, è chiaramente sul Sole 24 Ore, poi anche sul sito del Sole 24 Ore. Unicredit prevede un ritorno alla crescita in Italia già nel quarto trimestre, lo ha detto oggi il numero uno Ghizzoni, con un più 0,1-0,2% e un'accelerazione più 0,6 nel 2014 e più 1,4% nel 2015. Questo per quello che riguarda il PIL italiano. Devo dire che 0,6 nel 2014 è abbastanza non modesto, ma è abbastanza prudenziale, visto che il governo ritiene l'1% come crescita l'anno prossimo. Ancora per quello che riguarda i costi della politica, vedo molti messaggi, non ne parliamo adesso, ne parliamo nella seconda ora del programma. Vorrei partire invece con l'industriale bresciani, che domani sono in assemblea, per fare un punto, diciamo, anche congiunturale su queste previsioni di ripresa, e poi passare invece agli industriali pratesi, che hanno tutto un altro tema da affrontare, che possiamo dirlo banalmente si chiama controllo del territorio. È anni che questa cosa si dice sui cinesi a Prato, e non solo a Prato. È anni che evidentemente, non dico qualcuno chiude gli occhi, ma insomma, nonostante le denunce, l'allarme, le rivendicazioni di una concorrenza scorretta, perché è chiaro che se tu produci in quelle condizioni, al di là dell'essere inaccettabile in uno stato come l'Italia nel 2013, Oltre a questo, fai anche concorrenza sleale, perché hai voglia a rispettare giustamente tutte quelle che sono le indicazioni delle AS, dei vigili del fuoco e quant'altro. Comunque, prima Brescia e poi Prato, 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Ancora negativo a Brescia il saldo tra aziende nate e aziende che hanno chiuso, 164 in meno, cioè sono nate nel 2012 7.609 imprese a fronte di 7.764 chiusure, sono comunque 122.000 imprese sul territorio, di cui la maggior parte sono rappresentate in Confindustria. Stiamo parlando di uno dei territori più importanti sul fronte dell'industrializzazione e le 630 aziende più importanti del territorio bresciano hanno evidenziato una situazione patrimoniale in questi anni solida, abbastanza solida, con possibilità di indebitamento ancora consistenti. 13 miliardi di fatturato complessivo, se si calcolano tutte le aziende del bresciano siamo a 30 miliardi. Siamo in collegamento con il presidente degli industriali bresciani, Marco Bonometti, buonasera. Buonasera a tutti. La sentiamo un po' bassa, alziamo un po' il volume. Buonasera a tutti. Eccoci, bene, squillante con noi. Senta, voi domani avrete un incontro a cui parteciperà anche il presidente Confindustria Squinzi per la vostra assemblea. Uniti per cambiare. Entreranno grandi aziende in associazione industriale, ho capito bene? Sì, sì. Domani abbiamo questa assemblea aperta. È un evento importante per l'Associazione Industriale Bresciana, che penso anche per la Confindustria e per tutti coloro che credono nel futuro della propria impresa e nel futuro del Paese. Credo che sia arrivato il momento in cui dobbiamo ritrovare uno spirito comune per favorire uno scatto di orgoglio che non esclude nessuno. Perché è vero che i dati che sentiamo, che leggiamo sui giornali, non sono positivi, ma possiamo confermare che l'industria vera, l'industria manufatturiera è più viva che mai. E i dati che ho sentito sui bilanci delle aziende bresciane lo confermano, vuol dire che gli industriali credono ancora nel loro futuro, credono nella loro azienda. Il fatto stesso che abbiano patrimonializzato di più le loro aziende vuol dire che ci credono, ci mettono le risorse, oltre il sacrificio, e sono pronti, penso, proprio per cogliere i momenti più favorevoli che speriamo ormai siano alle porte. Dobbiamo però stare attenti che questi sforzi non vengano vanificati, perché la crescita è ancora bassa e purtroppo fare impresa in Italia è ancora difficile, se non impossibile. A mio avviso dobbiamo creare tutte le condizioni perché le aziende possano crescere e svilupparsi. Quando parliamo di imprese manufatturiere vuol dire posti di lavoro, occupazione. Il problema più grosso oggi è l'occupazione in Italia. Se noi non puntiamo sulle imprese, non puntiamo sul lavoro, non abbiamo possibilità di crescita e di sviluppo e soprattutto di distribuzione del benessere. Dobbiamo fare in modo tutti assieme, diffondendo una cultura d'impresa che veda le imprese e i lavoratori alleati nell'unica sfida, in modo tale che fare impresa oggi diventi l'imperativo categorico. Dobbiamo difendere le imprese fino in fondo, difendere le imprese, sì, che operano nella legalità e rispettano le leggi. E adesso su questo arriveremo, Bonometti, con il suo collega di Prato. Mi dica una cosa però, i segnali che voi ricevete, voi siete un po' un distretto, tanti distretti, ma insomma fondamentale nella meccanica, meccanica strumentale, siderurgia, meccanica di precisione, oltre che rubinetteria. Altre. Abbiamo una gamma diversa di, sì, di, sì, prodotti di aziende. Ecco, e lavorate molto con la Germania in fornitura o subfornitura, oltre, sì, che con aziende, diciamo, che vendono prodotto finito. I segnali che state ricevendo sul 2014 portano a dire che c'è un, come stimava oggi anche il numero uno di Unicredit Ghizzoni, come dice il governo, come vediamo da altri istituti, una ripresa, e quindi che la parte più buia e la parte più bassa del ciclo dovrebbe essere alle spalle o no? Io penso che la parte più buia del ciclo sia superata, perché comunque abbiamo un'inversione di tendenza. La discesa è finita, si ha un'inversione di tendenza. La produzione sta aumentando, però permangono le difficoltà, la burocrazia. Noi in associazione qui, per interpretare il cambiamento, abbiamo riorganizzato la nostra associazione e abbiamo proprio istituito un ufficio sburocratizzazione, perché riteniamo che la maggior parte dei problemi, dei costi delle aziende sia dovuto alla sburocratizzazione. Ecco perché vogliamo sburocratizzare tutti gli enti e farci noi interpreti di questo nuovo, di questa nuova esigenza, perché effettivamente, se come dei primi segnali c'è un'inversione di tendenza, dobbiamo saper cogliere questo segno positivo, altrimenti le aziende veramente vanificano i loro sforzi. E questo è un messaggio che io voglio dare a tutti, perché non sono solo le aziende che devono fare gli sforzi e trovare questo scatto di orgoglio, dobbiamo essere tutti. Tutta la società deve porre al centro dell'agenda l'industria manifatturiera. Allora, su questo faccio un brevissimo ragionamento, e cioè, oltre che essere una palla al piede, una zavorra inutile per lo sviluppo delle imprese in Italia, abbiamo detto più volte, ma perché non si riesce a fare una riforma a costo zero come la Bassanini per le imprese, l'autocertificazione, tranne che alcune cose, uno parte con l'attività, poi i vigili del fuoco, va bene, quelli si possono venire prima, ma tutte le varie Ministero dell'Ambiente, l'impatto ambientale e altre amenità vengono controllati dopo. Intanto lo fai partire, lui autocertifica che è in regola, dopodiché se lo becchi che non è in regola gli dai sanzioni ancora più pesanti, come avviene con l'autocertificazione per i cittadini, ma intanto lo fai partire in modo che c'è un rapporto, insomma, anche più rispettoso nei confronti dell'imprenditore, così come Bassanini lo applicò sul cittadino. Perché lo dico? Perché tu, Stato, non puoi partire dall'idea che l'imprenditore o il cittadino ti voglia sempre fregare, se no chiudiamo la baracca. Tu parti dall'idea che il cittadino è onesto e anche l'imprenditore. Ci saranno i disonesti, infatti tu i controlli li fai, ma lo fai partire intanto, poi gli mandi gli ispettori, tutti quelli che vuoi. È inutile aspettare un anno e mezzo, due anni e mezzo, tre anni per aprire un'attività. In aggiunta, nel ringraziare la Bonometti, lascio a lei anche questa riflessione: se almeno questi controlli servissero ad annullare praticamente, e quindi questa burocrazia lenta che ti obbliga a fare 7, 8, 12 passaggi, servisse ad annullare i reati, vabbè, saremmo la Svizzera o la Scandinavia. E invece abbiamo la terra dei fuochi, abbiamo produzioni completamente illegali e abbiamo il caso Pratese. Quindi, oltre al danno, il tempo che l'imprenditore sano e onesto deve aspettare, c'è anche la beffa che il disonesto opera tranquillamente. Controlli o non controlli. Bonometti, in bocca al lupo per l'assemblea di domani. Mi sente ancora? Sì, ci sono. E ringrazio invece il suo collega che ci ha raggiunto, perché adesso, come avrete capito, anche alla luce di questa burocrazia che punisce gli onesti, lacci, lacciuoli per l'imprenditore corretto, e tanto quello, diciamo, scorretto se ne frega, criminalità organizzata, ma anche, mi dispiace associarli, ma quello che abbiamo visto è inaccettabile anche, e a questo punto è inutile continuare a difenderli, anche la comunità cinese di Prato deve in altre parti del paese deve iniziare a mettersi una mano sulla coscienza e piantarla veramente di continuare ad adottare altre forme di scuse e scusanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Mo raccontiamo come, nonostante la burocrazia più pesante d'Europa, ci siano zone completamente consegnate all'illegalità. Non lo dico io, lo dice il procuratore della Repubblica di Prato. La maggior parte delle aziende sono organizzate così, è il Far West, lo dice il procuratore della Repubblica Piero Toni. I controlli sulla sicurezza, su ciò che è collegabile al lavoro, nonostante l'impegno di tutte le amministrazioni e delle forze dell'ordine, sono insufficienti. Siamo sottodimensionati, siamo tarati su una città che non esiste più, una città di 30 anni fa. Addirittura il procuratore capo dice che i gestori cinesi della ditta Teresa Moda, dove sono morti ieri 7 operai, non è ancora chiaro chi siano. Contiamo che ci saranno gli indagati in giornata. Ma insomma, questa è una resa, anche se il procuratore dice che in 4 anni hanno fatto 600 sequestri. Presidente dell'Unione Industriale di Prato, Andrea Cavicchi, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, lei sa che una volta venni a Prato e dissi, facendo, non so se c'era anche lei, facendo arrabbiare gli industriali, includete i cinesi perché non potete più tenerli fuori, però includeteli legalmente. Ora, io sono per l'inclusione della comunità cinese, perché è inutile, può essere anche un vantaggio, può essere anche un'apertura, però così come a Milano in via Sarpi è inaccettabile quello che abbiamo visto negli anni passati, cioè un comune che a volte si arrende a una situazione, diciamo, di non gestione di quella che è la comune normale, il civile vivere, a Prato mi sembra che la collettività, le istituzioni si siano arrese. Le chiedo qualche minuto di pazienza, perché poi le voglio far ascoltare che cosa ha detto oggi Alessio Gramolati, che è segretario generale della CGIL in Toscana, e poi capire che cosa si può concretamente fare, perché a me non basta sentire il procuratore che dice siamo sottodimensionati, di più non possiamo fare. Allora cosa fa? Ci rassegniamo che ogni tanto qualche cinese muoia ustionato oppure scompaia con questi passaporti che vengono, tanto è un segreto di Pulcinella, passati di mano in mano, e abbiamo tassi di mortalità praticamente inesistenti nella comunità cinese. Sono 10 anni da quando questo fenomeno sostanzialmente è esploso, che nelle aziende che fanno capo, diciamo così, a questo tipo di filiera chiediamo che vengano fatti accordi per la tracciabilità. Abbiamo trovato interlocutori sensibili, parlo di Gucci, penso in queste circostanze si debbano fare anche dei nomi, non parlare in astratto, e abbiamo trovato altre filiere e altri capofila assolutamente non sensibili, che non hanno consentito accordi che evitassero questo stato di situazione. E i nomi qua? I nomi sono di le altre importanti griffe, alcune hanno scelto di non lavorare con i cinesi, mi riferisco a tutte le filiere francesi, altre italiane sull'emozione della vicenda si sono rese disponibili a qualche accordo, ma poi non seguono pedissequamente quello che deve essere fatto. Ci faccia i nomi di queste, Gramolati. Guardi, tutti i grandi gruppi che non hanno filiere, tracciabilità nelle filiere, sono in qualche maniera protagoniste di un sistema che ha queste caratteristiche. Vi faccio un altro esempio, perché breve, appunto, che dobbiamo chiudere. Sì, assolutamente breve. La possibilità che queste realtà rispondessero in solido degli abusi commessi sui lavoratori è una nostra proposta, anche su questa non abbiamo avuto risposta. Come vede, sono molte le iniziative. Allora, così il segretario generale della CGIL in Toscana, che è appunto al microfono del nostro Simone Spezia durante effetto giorno, ha ammesso che comunque c'è stata una debolezza del sindacato. Allora, presidente Cavicchi, le dico già quali sono le obiezioni che arrivano via SMS e via Facebook. Che questi cinesi, insomma, 5.000 insomma, quelli legali, è difficile stimarli, vivono in qualche modo perché c'è una connivenza di fondo, vuoi perché paghino in contanti, ma non è possibile che non si riesca a debellare un fenomeno che, per carità, è molto endemico, ma non è criminalità organizzata. Mentre il procuratore capo dice con queste risorse non ce la facciamo. C'è stata, secondo lei, non dico degli industriali che vedono concorrenza sleale, chi però non li ha usati, ma in generale nella comunità pratese, un'accettazione di fondo? Ma allora, quando parliamo di comunità cinese, il parlare di non una criminalità organizzata secondo me è un errore, perché qui la parte dell'illegalità è diffusa ed è una criminalità organizzata, non di stampo mafioso ma di stampo economico illegale. Comunque la parte di Prato, diciamo, Prato è sempre stata una città che ha accolto moltissimi immigrati, potevano essere dall'Italia o dall'estero. Si pensa che negli anni 50 c'è stato un raddoppiamento della popolazione in poco meno di 20 anni, quindi anche nel periodo del boom economico Prato ha accolto dal meridione o dal nord molte persone, e quindi è una città che ha accolto sempre in chiave di lavoro, quindi di grande immigrazione per il lavoro. Quindi è una città che ha accolto la comunità cinese, ed è, diciamo, per i numeri che ha, non ha creato neanche conflitti razziali importanti. Questa è una caratteristica tipica del nostro territorio. Ora, la connivenza, diciamo, se si parla di affitti, e molti sono quasi tutti affitti regolari, io non potrei dire che è una connivenza. Quando si dà un capannone, una casa, un appartamento in affitto, io non credo che questo si possa considerare avere una relazione illegale. Chiaro, se il capannone è dato irregolarmente in affitto, devo dire di sì. Però ecco, credo che nel nostro territorio si sia insediata questa comunità cinese così, in maniera così ampia, proprio perché si è creata una situazione di crisi economica, ha lasciato molti spazi aperti e si è creato appunto un sistema che poteva accogliere queste comunità a lavorare. Oggi dobbiamo debellarlo questo problema, dobbiamo debellarlo. Il procuratore Toni dice è sotto organico, io sono d'accordo con lui, siamo stati anche a trovarlo come associazione industriale e devo dire che quando ha presentato il numero dei suoi magistrati, insomma dei suoi responsabili sul territorio, è veramente sotto organico. Se a Firenze un responsabile ha 300-400 cause, cioè 400 indagini da portare avanti, sul nostro territorio si parla di 2000 a testa, quindi c'è un problema veramente di sotto organico. Però io aspetterei a dire che il nostro territorio è tutto un territorio di illegalità. Noi abbiamo una grandissima presenza di imprese, abbiamo circa 27.000 imprese sul territorio, di cui 3.000 cinesi. Quindi abbiamo una realtà industriale molto importante, questa non dobbiamo dimenticarci. Allora, ci mancherebbe, no, io ho parlato di illegalità in alcuni punti del territorio, sì, ma citando le parole del procuratore capo, sì, senta... Sì. Io vorrei capire una cosa, ma secondo lei, diciamocela tutta, tanto non ci ascolta nessuno, ma no, speriamo di sì, però insomma, senta, ma qui noi sappiamo che i cinesi a Milano, a Prato, in altre aree in cui sono molto forti, a Roma, Padova, hanno una grossa disponibilità di contanti, cioè comprano esercizi commerciali in contanti, e vabbè. Però non c'è, secondo lei, sospetto che questi contanti non siano serviti solo per comprare capannoni e attività commerciali? Cioè, voglio dire, è mai possibile che... qui molti ascoltatori scrivono anche della sua provincia che è noto che ci sono bustrelle. Io non voglio fare su questo sparare nel mucchio, però mi sembra strano che una comunità possa operare con un tale tasso di illegalità a un livello così alto di impunità senza avere stretto degli accordi con qualcuno. Non so se mi sto facendo capire, insomma. Guardi, parlando chiaramente, pochi anni fa c'è stata proprio un'indagine sulla qui a Prato, mi sembra sia stato inquisito il vicequestore, mi sembra. Eh sì. Ecco, quindi questo dimostra dai fatti, ecco, più che illazioni, c'era stato appunto un'indagine proprio sul vicequestore. Ora, questo è un sospetto che abbiamo, perché noi abbiamo sulle nostre aziende una serie di controlli che sono continui da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, da parte anche dei vigili urbani, dalla SL, dall'ARPAT. Quindi le nostre imprese sono controllate continuamente. Molti dei miei imprenditori, dei miei associati si lamentano appunto dei troppi controlli, ma io quando sono andato a parlare sia con l'Agenzia delle Entrate che con la Guardia di Finanza ho sempre sollecitato maggiori controlli, però per tutti, cioè quello che registriamo sul nostro territorio è che le aziende cinesi, perché hanno un sistema, molte, ma non tutte, perché ci sono anche aziende cinesi che hanno il comportamento regolare come le nostre, però molte aziende cinesi hanno questa natalità e mortalità molto precoce, nel senso durano circa 2 anni, in modo tale da non avere, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate non può controllare, perché quando va a fare un intervento controlla i 3 anni precedenti, il bilancio di 3 anni precedenti, quindi a quel punto non esisteva la società. E questo è un grande problema, perché sì, se si va a vedere la Camera di Commercio quante partite IVA vengano registrate e poi vengano chiuse, è un problema serio, ma qui dobbiamo trovare un sistema nuovo di controllare. Allora, l'ultima domanda dopo il traffico, 2 cose respingo come ragionamento. Quello che scrive un ascoltatore, senza i cinesi l'industria dell'abbigliamento italiana sarebbe già finita. No, non c'è nessun buon motivo per produrre in quelle condizioni. Fermo restando che poi a livello di analisi è anni che spieghiamo come l'industria tessile italiana, nella parte più nota, si è riuscita a spostare, molti hanno dovuto chiudere ahimè, ma si sia spostata su una fascia di maggior lusso, cioè voglio dire, parliamoci chiaro, è inutile far concorrenza ai cinesi della Cina su vecchie produzioni italiane, per cui non sono d'accordo né dal punto di vista etico né dal punto di vista economico. Altra cosa che molti segnalano, dicono vabbè, però ci può essere anche un interesse non nei vostri associati ma comunque in imprenditori anche non vostri associati in questo rapporto con i cinesi, cioè può far comodo anche alcuni italiani come controparte avere produzioni in nero che non si dichiarano. E quindi, partendo da questo, dopo il traffico vorrei sapere che come intendete muovervi anche nei prossimi giorni e settimane, oppure aspettiamo il prossimo incendio e tanto ormai diamo per scontato che la comunità cinese non si può toccare. Ha ragione chi dice che il console si lamentò per i controlli, sbagliando, il console cinese. Ha ragione chi dice ma dov'è l'ambasciata cinese? Vorremmo sentire anche noi un commento dall'ambasciata cinese che immagino tuteli i cinesi regolari e legali e non apprezzi i cinesi irregolari e illegali. E molti segnalano come anche a Milano in via Sarpi sono tornati a fare quello che facevano prima. A Padova il giorno dopo erano già al consolato per protestare dopo aver ricevuto controlli e poi tutto tace. Cioè non vorrei che ci fosse anche una dimensione di pressione politica. Allora, presidente degli industriali pratesi, che cosa avete intenzione di fare adesso? Insomma, perché a mio avviso c'è comunque anche la collusione di una parte delle istituzioni e anche di qualche imprenditore non iscritto a Confindustria, per carità, però insomma che ci guadagna. Non posso pensare che la comunità sia così forte pur essendo così isolata. Ma da domani o da oggi che cosa chiederete? Noi abbiamo già chiesto molto anche a Alfano, perché di recente il vice premier è venuto anche a Prato proprio per risiglare un patto per la sicurezza di Prato, questo è avvenuto a settembre, dove si era stato firmato appunto l'intensificazione delle forze dell'ordine e quindi un'attenzione particolare al nostro territorio proprio per l'illegalità diffusa. Quindi la nostra come associazione non abbiamo compiti di controllo e non possiamo fare funzioni di polizia, però possiamo sollecitare la politica affinché intensifichi i controlli sul nostro territorio. Una cosa che vorrei precisare è che il tessile italiano non è finito e non sarebbe finito se non ci fossero cinesi. Quello che avviene a Prato è una realtà all'interno di un distretto, cioè è un micro distretto all'interno di un distretto. La produzione di tessuti avviene tuttora, ci sono 8.000 aziende manifatturiere sul nostro territorio, di cui moltissime sono produttori di tessuto che non lavorano con le aziende cinesi, alcune possono anche lavorarci, ma non sono le due filiere non sono collegate. Noi produciamo tessuti e i cinesi producono capi d'abbigliamento, quasi sempre pronto moda per le donne, femminile. Quindi è un mercato completamente diverso. I tessuti vengono importati molto spesso a costi molto più bassi, sdoganati anche in dogane internazionali, quindi c'è un giro internazionale, vengono sdoganati a prezzi più bassi e vengono importati dall'estero, dalla Cina quasi tutti, quindi vengono confezionati a Prato e poi venduti in maniera irregolare. Quindi si è inserito in un territorio di forte produzione industriale tessile una produzione di capi d'abbigliamento cinese. Quello che sentiamo sul nostro territorio è che spesso ci sono pressioni politiche dal governo cinese sul territorio sì. Per i controlli. Questo è effettivamente tutte le forze dell'ordine con le quali siamo andati a parlare l'hanno confermato, chi più in maniera palese e chi meno. Sono arrivate nella pausa pubblicitaria del GR moltissimi sms sulla situazione a Prato e su altre situazioni analoghe, penso a Padova, penso a Milano. Allora è chiaro che qualcosa non sta funzionando, mettiamola così. Ha ragione anche chi dice ma come mai questi cinesi che operano in nero e nella totale illegalità poi hanno a disposizione auto, cioè le banche, come mai prestano i soldi ai cinesi? Cioè, di solito la banca chiede, insomma, ammesso che li prestino, vorrei sapere le varie filiali delle banche italiane a Prato hanno clienti cinesi, sono tutti regolari, sono tutti trasparenti, no, chiedo. La borsa oggi la faccio io, e vi dovete accontentare, meno 1,50% Milano, peggio di Parigi che fa meno 0,20%, di Francoforte che chiude invariata, Londra meno 0,80%, l'America invariata. Perché? Beh, la vicenda oggi si chiama soprattutto Enel, meno 3,76%, ma i motivi non sono di carattere italiano, sono di carattere spagnolo. Enel controlla infatti Endesa, che il più grosso gruppo elettrico in Spagna, è l'Enel spagnola. E cosa è successo? Sembra che il governo spagnolo stia ragionando di eliminare dai 3 ai 4 miliardi di agevolazioni, incentivi per le aziende elettriche spagnole. Il titolo ne risente anche Enel Green Power, meno 3,20%. Poi c'è Saipem che perde il 2,97%, il 3% anch'esso. Luxottica meno 2,70%. È strana Luxottica perché oggi il settore lusso invece si era ben mosso, Ferragamo più 1%, anche Tod's era positiva, poi è chiuso in parità. Ancora in parte smentite le voci per quello che riguarda Telecom Brasile, dopo le indiscrezioni della settimana scorsa, smentite le voci di una vendita di Telecom Brasile. Il titolo perde il 2,50%, mi riferisco a Telecom Italia. Fiat meno 2,30%, Gtech meno 2,20% come Prismian, e il 2% lo perde A2A, l'1,80% anche CNH Industrial e Atlantia, ma anche Terna e il Banco Popolare perdono l'1,80%. Molti ci chiedono di Moncler in borsa. Allora, in vista dello sbarco in borsa di Moncler, storico marchio dei piumini, e che si chiuderà l'offerta la prossima settimana, pensate che le richieste sono già state ad oggi 12 volte superiori all'offerta. Avrà un prezzo tra l'8,75 euro e 10,2 euro per azione, ma vista la richiesta è probabile che il prezzo si collocherà nella parte più alta, cioè verso i 10 euro. Migliori e peggiori della settimana, beh, cito il caso di Save, che ha confermato le indiscrezioni di un dividendo straordinario, e il titolo da questo punto di vista ha guadagnato fino al 6,7%. Tra chi è chiuso in positivo anche World Duty Free più 1%. E adesso torniamo con gli appuntamenti praticamente fissi di questa rubrica. Perché fissi? Perché sono ormai da mesi che ci occupiamo, anzi anni, dei costi della politica, e vi arriveremo tra un attimo col nuovo capitolo della puntata di Perotti, dell'inchiesta dell'economista Perotti sui costi della politica di Roberto Perotti. Però l'altro tema che ahimè è diventato fisso è quello dell'IMU. Allora, a che punto è la giungla? Più che la notte, lo chiedo a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che insomma è principale autore della telenovela sull'IMU, autore in quanto narrante, non in quanto responsabile. Incolpevole. Gianni, incolpevole. Gianni, buonasera. Buonasera. Allora, a voi. A parte l'ingorgo delle scadenze, perché adesso i comuni hanno tempo fino al 9 dicembre per comunicare chi ha aumentato l'aliquota IMU. Il 10 dicembre c'è il pagamento degli acconti IRAP e IRES, il 16 dicembre c'è il pagamento del saldo IMU per la seconda casa e prime case di pregio, il 27 dicembre c'è l'acconto IVA che, da quello che abbiamo capito, potrebbe aumentare per coprire interamente la seconda rata IMU, e poi il 16 gennaio 2014 pagamento della differenza della rata, il saldo IMU, nei comuni che hanno alzato l'aliquota, sempre che il governo non riesca a trovare i 200 milioni, se ho ben capito, che servono per le coperture. Gianni, a te la sintesi, a che punto siamo del guado? Sì, siamo al punto in cui appunto il governo e la maggioranza hanno avuto sentore del fatto che far pagare una mini IMU a gennaio sulla prima casa dopo aver annunciato l'abolizione non è il massimo, per cui si cercano tra i 150 e i 200 milioni per evitare anche questo appuntamento, perché in base al decreto legge ultimo approvato sulla materia, a gennaio nei circa 2.400 comuni che hanno aumentato l'aliquota rispetto al parametro standard o nel 2012 o nel 2013, i contribuenti dovrebbero pagare la differenza, dovrebbero punto primo, calcolare la differenza fra l'IMU con aliquota effettiva e l'IMU ad aliquota standard. Calcolata questa differenza, pagarne il 40%. Allora, stiamo parlando di importi generalmente medi e medio-bassi. Sì. Non altissimi. No, perché sono 200 milioni in tutto, sono 10 milioni di abitazioni, per cui insomma fa 20 euro a cranio. Il problema qual è? Che di fronte a questi importi minimi, il carico di adempimenti e poi l'immagine legata al fatto che si paga un pezzo di un'imposta abolita hanno spinto, spingono sempre di più la politica a cercare di evitare questa cosa, anche perché non è semplicissimo per tutti, ovviamente per i non addetti ai lavori calcolare due IMU diverse con due aliquote diverse, far la differenza e calcolare il 40%. Chi non si vuole avventurare in questo tipo di conteggi deve rivolgersi a un centro di assistenza fiscale o a un commercialista, e in molti casi questa consulenza gli costa di più dell'imposta da pagare, il che appunto non è il massimo. E quindi si sta cercando con il solito affanno, diciamo così, di trovare un rimedio anche a questo problema. Le ipotesi sul campo sono un po', e tra questo po', diciamo, c'è il ritocco dell'ultimo acconto disponibile. L'IVA del 27 di dicembre si paga all'88% attualmente, e questo 88% potrebbe salire perché gli acconti dell'IRPEF, che scadono oggi, ricordiamocelo, gli acconti dell'IRES e dell'IRAP sono già tutti aumentati, e l'ultimo trenino che c'è, tre giorni prima della fine dell'anno, è quello dell'acconto IVA. Verosimilmente, insomma, non si dovrebbe arrivare a pagare la minimo, però al momento una copertura alternativa non c'è. E sarà un bel Natale Capodanno per i commercialisti, ma fai bene a far notare che si tratta per quello che riguarda il saldo della rata IMU, a seconda che i comuni abbiano aumentato o no l'aliquota sulla parte massima. È vero che la cifra è bassa, 20, 30, 40 euro, sarebbe assurdo pagare molto di più per un commercialista che ti aiuti. Sì, ma sempre poi che il commercialista abbia tempo di fartelo, perché in questa fase sono veramente intasati. Allora, Gianni Trovati, c'è chi dice ma ormai è un appuntamento fisso. Sì, è un appuntamento fisso perché il governo continua a cambiare idea sull'IMU e Trovati continua a essere un appuntamento fisso. Vedete che se il governo fa chiarezza sull'IMU, Gianni Trovati scompare, nel senso, diciamo, radiofonico del termine. Sì. Continua a scrivere molto, certo, per il 24 ore, verrà altre volte, ma non con questa cadenza che è pesante per lo stesso Trovati. Dopo il traffico, ultimo tema, perché avevamo promesso che sarebbe tornato l'economista Roberto Perotti, che sta studiando in maniera puntuale e dettagliata i costi della politica, i risparmi possibili. L'elemento più citato, il personaggio più citato nel confronto televisivo tra Renzi, Civati e Cuperlo, ebbene, tornerà a raccontarci appunto che cosa ha scoperto sui costi degli organi legislativi, che vuol dire Camera, Senato, i consigli regionali, i consigli provinciali. Non è tutta la macchina, sono solo gli organi legislativi, parliamo solo di questi. ho detto e lo presenterò, lascerò una copia a Gianni e a Pippo. Questo è un piano che ha studiato il professor Perotti della Voce.info, che quindi i suoi ricercatori non possono conoscere. C'è nel dettaglio l'elenco delle spese che possiamo risparmiare, e credo però che il dato di Tor Vergata non sia corretto. Perché? Perché non è che se abolisci il Senato, abolisci tu cur il Senato, i dipendenti ti rimangono, identicasi per le province. Quindi su questo tema mi piacerebbe una discussione concreta. Io dico, se mi sono spiegato male chiedo scusa, prego, che noi su 2 miliardi e mezzo risparmiamo 1 miliardo di euro, quindi rimane 1 miliardo e mezzo. Il mio PD, se sarò eletto, in 3 anni 1 miliardo netto di risparmio sui costi della politica. Beh. Allora, da economista star, professor Roberto Perotti, che insegna economia e politica alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Non è che si sta montando la testa, no? No, tra l'altro questo passaggio di Renzi, questo è dal sì, certo, dal, certo. Ecco, no, questo non l'avevo, perché io non ho Sky, quindi non avevo visto il confronto e non... Non lo conoscevo. Allora, professore, insomma, Renzi poi l'ha ribadita sta cosa da Pesaro ieri, ha detto se vinciamo noi i costi della politica li tagliamo di 1 miliardo in, lui dice 3 anni, poi ha aggiunto 1 anno, insomma, lei ha calcolato che costino complessivamente gli organi legislativi 2 miliardi e mezzo e sono così divisi: 970 milioni la Camera, 480 milioni il Senato, 985 milioni i consigli regionali, 45 milioni i consigli provinciali. Di questi 2 miliardi e mezzo, 440 milioni se ne vanno in stipendi, 220 milioni in rimborsi ai gruppi, e qui abbiamo fatto una campagna che dura da 1 anno, 380 milioni in trattamenti previdenziali dopo la fine del mandato, 790 milioni per il personale non eletto, 315 milioni per i trattamenti previdenziali del personale. Diciamo che se sommassimo i 380 milioni di trattamenti previdenziali, i 224 milioni di rimborsi ai gruppi, saremo ampiamente sopra il 0,5 miliardo. La remunerazione annuale di un deputato è di 240.000 euro lordi, un consigliere, che mi sembra un po' altina, un consigliere regionale guadagna 200.000 euro lordi, un consigliere provinciale 17.000 euro in media. Allora, mi dica due cose. La prima, è credibile, è realistico quello che promette Renzi? Secondo aspetto, dove invece secondo lei si potrebbe tagliare e avere dei risparmi già da subito? La risposta alla prima domanda è sì, sono gli stessi numeri che si trovano sul mio studio, di 1 miliardo, e ovviamente ci vuole la volontà politica per farlo, come in tutte queste cose, ma realisticamente si può fare. Il vantaggio di tagliare 1 miliardo qui è che non si manda sul lastrico nessuno, perché non è che riducendo l'indennità di un consigliere regionale da 200 a 120 mila euro o anche a 140 mila lo si manda sul lastrico. Quindi è una cosa che si può fare, che è molto popolare, che male non fa per un politico e che non ha effetti collaterali gravi, e che si deve fare secondo me, perché altrimenti il paese esplode. Quindi 30% dei compensi ai parlamentari, se capisco bene, visto che fa 240 mila euro lordi, vorrebbe dire sostanzialmente avere 72 mila euro lordi in meno. Sì. Mm? E che rimando sempre 170 mila euro. Che insomma ci si può campare. Sì. E resterebbero comunque più alti dei parlamentari britannici, dove il costo della vita magari a Londra è anche più alto che a Roma. E poi riduzione a 500 dagli attuali 950 del numero dei parlamentari, altri 53 milioni risparmiati. E poi progressione dei salari dei dipendenti, 60 milioni di risparmio alla Camera e 30 milioni di risparmio al Senato. Dimezzare il numero di consiglieri regionali e ridurre lo stipendio del 30%, anche lì sono altri 140 milioni di risparmio. Dal taglio del 30% ai vitalizi arriverebbero altri 54 milioni. Poi si potrebbe ridurre la retribuzione più alte dei dipendenti, sono altri 60 milioni. E una cosa mi ha sorpreso dal suo studio, che è molto dettagliato, che le province, i consigli provinciali, le giunte provinciali, che tanto criticati per il loro ruolo, ma non è che pesino così tanto, no? Sì, però bisogna, appunto, come detto all'inizio, bisogna ribadire che questo è solo i costi degli organismi elettivi e legislativi, quindi nel caso delle province solo ed esclusivamente i costi dei consigli regionali e delle remunerazioni dei consiglieri. Poi ci sono tutti i dirigenti, per esempio gli impiegati dei consigli regionali, su cui finora non sono riuscito a ottenere dati. però nei casi in cui sono riuscito, le province costano non per i consigli regionali, che appunto il totale è circa 40 milioni, perché la remunerazione di un consigliere provinciale è piccola, 17 mila euro in media, ma costano perché hanno tanti dirigenti rispetto alle regioni e rispetto ai soldi che muovono. Le province muovono relativamente pochi soldi rispetto alle regioni, ma hanno tanti dirigenti e tanti impiegati rispetto alle regioni, quindi il costo per euro spostato da una provincia è molto più alto che per una regione. Ma questo appunto non è il costo, il risparmio totale che si avrebbe se per esempio si abolissero le province, in quel caso sarebbe molto più alto. Questo è solo il risparmio solo alla spesa per i consigli regionali, provinciali o per il Parlamento, è una parte minima dei costi politici. Allora, poi c'è l'aspetto di come hanno aggirato, lei propone un taggio del 30%, ma hanno già aggirato il taglio del 10% di Monti, del governo Monti, perché hanno ridotto la parte, la spiego in maniera un po' grossier, un po' grossolana, hanno ridotto la parte fissa e aumentato il variabile, si direbbe nel mondo del privato, no? Per cui... Sì, hanno diminuito la parte tassabile, che quella si chiama indennità, hanno aumentato la parte non tassabile, che però è sempre un reddito, perché la diaria non è che bisogna sottoporre le ricevute, è un reddito non tassabile. Ce ne siamo accorti in varie regioni che le ricevute non tutto tranne che sottoponibili. Quindi di fatto non in tutte, ma in alcune regioni il reddito netto di tasse è addirittura aumentato, che io trovo veramente una cosa poco edificante. Dopo tante puntate, tanta polemica sulla casta, ce l'avete con noi, le regioni, chi faceva notare al vice direttore del TG1, Gennaro San Giuliano, venerdì scorso, che se si va a vedere i grafici, si scopre che il debito italiano inizia a aumentare vertiginosamente da fine anni 70, dopo l'introduzione costituzionale delle regioni. Regioni, lo dico come dato di fatto, non ce l'ho con le regioni, però è un dato di fatto. Allora, regioni che lei ha calcolato costare 1 miliardo solo le regioni, con differenza abnomi, perché pure qua delle volte si fa di tutta l'erba un fascio, perché andiamo dai consiglieri liguri a 334 mila euro a quelli dell'Emilia Romagna a 118 mila euro, il costo per il cittadino varia tantissimo, si va dai 40 euro del cittadino calabrese per pagare la sua regione ai 7 euro del cittadino emiliano o lombardo, sarà forse anche per quello che sono regioni un po' economicamente più avanzate, non lo so. E poi nel suo rapporto che stavamo leggendo, lei cita anche dei casi assurdi sul numero dei consiglieri, insomma. In Umbria ci sono 31 consiglieri per 800.000 abitanti, uno ogni 25.000 abitanti compresi i bambini, un po' tanto. Basilicata un consigliere ogni 21.000 abitanti. Ecco, ma secondo lei tutto questo poi, visto quello che è successo, cadrà nel dimenticatoio o la politica può pensare anche a un incasso di consenso se finalmente fa una riforma sui costi della politica stessa? Io credo che un politico furbo adesso si rende conto che c'è talmente tanta antipolitica che fare un intervento forte sulla politica gli fa guadagnare consensi con dei costi, dei danni collaterali minimi, perché è vero, si inimicherà qualche consigliere regionale, ma guadagnerà centinaia di migliaia di voti o milioni di voti. Quindi un politico furbo, secondo me, capisce che questo è il momento di intervenire. Sicuramente sulle regioni, sul Parlamento sarebbe un caso di intervenire anche sul Parlamento, ma lì il problema è che insomma nessun tacchino ha mai votato per anticipare il giorno del ringraziamento, quindi il Parlamento che deve legiferare di ridurre il numero di parlamentari lì ovviamente è più dura. Ma sulle regioni secondo me è un rigore a porta vuota. Rigore a porta vuota, lo dice lei professor Perotti, sono d'accordo, anche sul Parlamento sarà più difficile. Una sola contestazione, secondo me non sta montando l'antipolitica, lo dico perché è un po' fuorviante il termine, sta montando una richiesta di politica che costi meno, è anche più sobria, è anche più onesta, ma non è antipolitica, è una politica migliore, ma è un mio inciso. Grazie professor Perotti, torni a trovarci appena il prossimo capitolo della sua inchiesta sui costi della politica sarà pronto, visto che ormai viene citato come la Bibbia. Benissimo, bene così. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di una buona serata a tutti voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.